America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, alle Nazioni Unite si è parlato ieri di donne, dopo la giornata della donna di domenica si è aperta questa sessione al Palazzo di Vetro. C'è stato anche un rapporto del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon che ci ha dato un po', come dire, uno spaccato su quella che è la situazione delle donne nel mondo. Secondo il rapporto, il 35% delle donne nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale. Una ragazza su 10 sotto i 18 anni è stata costretta ad avere rapporti sessuali. Il 38% delle donne uccise sono assassinate dai loro partners. Solo 32 paesi nel mondo non hanno leggi che garantiscono l'uguaglianza del genere nella loro Costituzione. Potrei continuare, ma di questo tema ne parleremo domani. Ci sarà ancora una giornata dedicata a questo argomento all'ONU. Parlerà Hillary Clinton, dunque torneremo in argomento. Notizie rapide. I repubblicani hanno bypassato Barack Obama, hanno scritto direttamente al governo iraniano dicendogli: attenzione, non fate l'accordo nucleare perché non vi conviene. Beh, è una cosa questa abbastanza senza precedenti. 47 senatori repubblicani hanno firmato questa lettera. La Casa Bianca è imbufalita, naturalmente, ma la cosa più interessante è che il ministro degli esteri iraniano Zarif ha risposto dicendo: questa è semplice propaganda, questi senatori non sanno di che cosa stanno parlando, perché non è vero che l'accordo potrebbe non essere valido, potrebbe essere cancellato dal prossimo presidente, come dicono loro, non conoscono la legge internazionale, violerebbero gli accordi internazionali. Insomma, devo dire, il quadro internazionale resta interessante, resta movimentato, ma oggi vorrei parlarvi di qualche cos'altro, vorrei parlarvi di filantropia, perché negli ultimi giorni abbiamo avuto una serie di notizie secondo me molto interessanti. Jiang Kun, fondatore e amministratore delegato di WhatsApp, ha donato, questa è una notizia della settimana scorsa, 556 milioni di dollari alla Community for Silicon Valley. Ecco, è una comunità locale, è una donazione locale, ma sono pur sempre 556 milioni di dollari. Di queste tematiche ne ho parlato col ministro Franceschini, che è stato a New York appena qualche giorno fa, e ho registrato la mia chiacchierata con lui. Sentiamola. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi. Allora, ci siamo incontrati anche a New York, ma insomma, queste notizie, che reazione le danno? Beh, abbiamo davvero un ritardo enorme da colmare, sia dal punto di vista degli importi, delle somme, delle donazioni. C'è una distanza siderale tra noi e gli Stati Uniti, ma soprattutto dal punto di vista dell'abitudine a donare per la tutela del patrimonio. Le norme che abbiamo approvato, nuove in Italia, molto importanti, l'Art Bonus è un incentivo fiscale che consente a un privato, a un'azienda che decide di donare una somma senza limiti, né in basso né in alto, per la tutela del patrimonio, per i musei o per le fondazioni lirico-sinfoniche, avrà un credito d'imposta del 65%. E questa è davvero una misura importante che sta incentivando le donazioni, ma soprattutto ha un valore pedagogico. Al di là dell'incentivo fiscale, bisogna davvero che in Italia si rompa questa sciocca barriera tra pubblico e privato. Il patrimonio culturale, secondo la intelligente definizione dell'UNESCO, è patrimonio dell'umanità. E significa che è di tutti. Ci ricorda che noi siamo tutti possessori pro tempore. Come possiamo convincere gli italiani che fare un'opera di donazione è davvero un'opera non solo di bene, ma moralmente importante? E questo è il lavoro pedagogico da fare. Naturalmente negli Stati Uniti c'è questa grande cultura del sostegno della piccola donazione o della grande donazione per i musei, per il patrimonio culturale, ma c'è anche un incentivo fiscale che ha aiutato molto da tanto tempo a far entrare questa cosa nella mentalità comune. L'incentivo fiscale in Italia c'è da qualche mese, c'è appunto, come dicevo, una barriera da recuperare, ma io penso che si debba andare con determinazione in quella direzione. E soprattutto io vorrei che la valutazione del valore sociale del bilancio di un'impresa, che spesso ha come riferimento positivo interventi di natura ambientale, avesse invece anche come parametro positivo quanto un'impresa dona per il recupero del patrimonio culturale. State pensando di allargare la deduzione fiscale un po' a tutto, a qualunque donazione che vada a una NGO, una fondazione che sia una non profit, diciamo, come si dice in America? Sì, ci sono delle misure anche nel settore della scuola, meccanismi su cui si sta ragionando, come il 5 per 1000, proprio anche in questo caso per abituare i cittadini italiani a contribuire direttamente, in base ai loro mezzi, alla tutela del patrimonio o comunque dei settori più fondamentali della vita sociale. Ci dia un po' un senso di cos'è stato questo suo viaggio americano. Come l'ha vissuta a New York, a parte il freddo naturalmente? Freddo terribile, ma a parte il freddo davvero due giornate molto importanti, molto impegnative. Abbiamo incontrato i possibili donatori, fondazioni, privati per spiegargli le regole dell'Art Bonus. Abbiamo incontrato il mondo del cinema per spiegargli questo nuovo tax credit importante, un altro incentivo fiscale che sta finalmente facendo tornare produzioni internazionali in Italia. Abbiamo raccontato di Expo, sia dell'evento straordinario, saranno più di 140 i paesi che avranno un loro padiglione a Expo, ma anche e soprattutto delle migliaia di eventi culturali di grande livello che ci sono in tutta Italia nei mesi di Expo. L'Italia è ammirata, invidiata, bisognerebbe che questo clima così positivo che c'è nel mondo verso di noi arrivasse anche agli italiani, perché riscoprono un po' di orgoglio nel loro paese. Come convinciamo un americano che è meglio investire da noi in un'opera culturale piuttosto che nella sua comunità? Beh, la tradizione è questa, ma delle eccezioni. In Italia per esempio c'è un rapporto che ormai dura da più di 10 anni con David Packard, che ha investito con la sua fondazione nel recupero del straordinario sito archeologico di Ercolano, e io ho provato a spiegare in questi giorni: tutelare un pezzo del patrimonio dell'umanità conosciuto in tutto il mondo significa fare del bene a quel sito, ma significa anche legare il nome della propria fondazione, della propria azienda, a un pezzo di storia del mondo. Secondo lei è un problema il fatto che il turismo non stia facendo al massimo il suo potenziale? Beh, il turismo è un grande veicolo di crescita economica. Nel mondo del mercato globale entrano ogni anno milioni e milioni di persone da paesi che non hanno mai mandato turisti in giro per il mondo, a cominciare dalla Cina. E noi siamo diventati il quinto paese per turismo internazionale, siamo stati anche il primo in altri decenni. Come possiamo tornare il primo? Io penso che ci siano tutte le condizioni per calare quella classifica e soprattutto, al di là della classifica, aumentare il numero assoluto di visitatori. In questi anni di crisi il turismo internazionale è l'unico settore che ha mantenuto un segno positivo, e questo è molto importante. Ma io sono assolutamente ottimista, anzi penso che in Italia si debba puntare strategicamente ad un modello di turismo sostenibile che punta alla qualità, all'eccellenza, che cerchi l'eccellenza nel cibo, nell'arte, nella cultura, nello shopping, nella moda, perché sappiamo una cosa che è assolutamente determinante: siamo il quinto paese per turismo internazionale, ma siamo assolutamente il primo in quanto a desiderio di viaggio. Con una potenzialità di questo tipo non potremo che crescere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo con noi ancora il ministro. Ministro, una canzone americana, una canzone che vuole lanciare ai nostri ascoltatori. Cosa le viene in mente? Beh, dopo alcuni giorni nel freddo della Grande Mela non mi può che venire in mente Liza Minnelli che canta New York, New York. And step around the hall. Of it, New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm the king of the hill, ha, top of the heap. My little town blues. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.